Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile. Bentrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti, la nostra rassegna che cerca le novità culturali internazionali. Questa settimana passeremo in rassegna Argentina, Australia, Germania, Inghilterra per finire poi in America. Ma sentiamo cosa abbiamo trovato per voi. Argentina. Un libro racconta 10 anni di televisione tra virtuosismi e volgarità. Ma la colpa non è solo della TV. Germania. Per raccontare l'ingiustizia subita, un ex detenuto della Germania dell'Est rivive una settimana di carcere volontario trasmessa su internet. Australia. Il cattivo umore non è del tutto malvagio. Stimola la memoria e porta ad essere meno creduloni. Lo dice una ricerca scientifica. Inghilterra. Pubblicata un'antologia di fumetti. Ma il nemico non è un mostro, bensì la corruzione. Giappone. Giappone non più algido e lontano. Cultura pop, manga e cartoni avvicinano questo enigmatico paese. Partiamo dunque con l'Argentina, dove un libro, che disastro la TV, però come mi piace, di Carlo Surlianowski e Pablo Sirven, analizza come la decadenza argentina abbia trascinato la TV e viceversa. In un'intervista al quotidiano argentino La Nación, i due autori non sono affatto teneri con il mezzo. Disastro, porcheria, quintessenza della volgarità. Questi gli aggettivi per la TV in un'analisi che riguarda gli anni che vanno dal 1999 al 2009. Si tira in ballo Maradona, la caduta del muro di Berlino, ma c'è anche una sorta di affetto per il mezzo. Non solo la TV porta, disvalora la società, ma è anche la società che deteriora la televisione. Venendo al caso di Maradona una decina di giorni fa ha vinto una partita con il Perù, permettendo all'Argentina di qualificarsi ai mondiali di calcio. Poco prima della fine della partita, Maradona è entrato in una conferenza stampa chiedendo le scuse della stampa tutta, che lo aveva pesantemente criticato nel suo ruolo di allenatore, con un'espressione molto volgare che è passata in televisione centinaia di volte, ribadendo il concetto, sdoganando e ripetendo, autorizzando un gesto e delle parole che sono diventate un vero tormentone. La TV in Argentina poi è dappertutto, non solo in casa ma nei parcheggi, metropolitana, nei luoghi pubblici, a tutto volume, bombardando la gente con tutta la sua invasività. Trasmissioni in cui non c'è più politica e dibattito, ma cui i politici vanno volentieri perché, non dovendo rispondere a domande scomode, ci guadagnano in audience, ci vanno e hanno un impatto straordinario sul pubblico e sui voti da portare a casa. Ma ci può raccontare meglio Roberto Darin, corrispondente per Il Sole 24 Ore da Buenos Aires. Ben trovato Roberto Darin. Grazie. Ecco, fa discutere questo libro in Argentina, è la prima volta che si pone una critica così feroce e ambivalente in fondo a questo mass media. Quanta parte ha la televisione nel costume sociale argentino? Beh, è una parte importante perché innanzitutto il canale satellitare, quello che noi in Italia chiamiamo canale satellitare oppure pay TV, è molto diffusa qui in Argentina, quindi c'è un accesso molto generalizzato e naturalmente la televisione è un mezzo molto popolare. Da qualche tempo questa parte è sotto i riflettori e non viene risparmiata da critiche di ogni genere. A partire dalla scorsa primavera, poco prima delle elezioni, ci fu un programma televisivo che fece parlare molto di sé, un reality dove gli attori erano personaggi politici. Ecco, da lì iniziò il vero dibattito sulla forza della televisione argentina. Ecco, era una specie, naturalmente sui suoi aspetti più deteriori. Era una specie di Grande Fratello, lei lo ha raccontato appunto sulla Domenica del Sole 24 Ore, cioè i politici venivano nominati e perdevano consenso qualora succedesse. Esattamente, la cosa più interessante del programma era questa, vi erano appunto 19 personaggi politici, dialoghi tra gli attori, parodie dei politici veri che preferiscono i politici veri evitare gli scontri diretti in TV, e quindi venivano parodiati da questo straordinario da questi straordinari imitatori. Ora, l'aspetto più intrigante qual era? Era che l'eliminazione di un politico dal Gran Cugnado, così si chiamava questa parodia del questo programma simile al Grande Fratello, veniva temuta dai politici moltissimo, perché secondo molti di loro preludeva a un'eliminazione poi dal risultato elettorale che ci sarebbe stato poche settimane dopo. Quindi alla fine i politici temevano più la trasmissione televisiva che i dibattiti veri e propri, che venivano poco seguiti. Quindi l'aspetto veramente rivoluzionario di questa trasmissione, secondo i sociologi e secondo i sondaggisti, è che l'impatto era maggiore, l'impatto di ciò che dicevano gli imitatori presso il grande pubblico rispetto a ciò che dicevano i politici veri. Quindi i telespettatori prestavano più attenzione alle parole di un imitatore piuttosto che del politico vero. Questo significa uno stravolgimento della realtà, naturalmente. Certo, questa la dice lunga. Mi chiedo, siccome in Italia c'è un forte dibattito sul fatto dell'esposizione delle donne e del corpo delle donne, questo succede anche in Argentina, cioè tutti i programmi hanno una specie di valletta dalle forme procaci che viene esposta, diciamo, in maniera molto discinta, come avviene in Italia? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è una tendenza che anche qui in Argentina è molto molto diffusa. Ciò che emerge dal libro che è stato scritto, Che disastro la TV però come mi piace, da Ulanowski e Sirven, è che la televisione, loro sostengono, negli ultimi 15 anni, forse 20 anni, è peggiorata sensibilmente a causa, qui viene un po' la provocazione, della caduta del muro di Berlino. Nessuno naturalmente rimpiange il muro di Berlino in sé, ma tutti gli autori del libro sostengono che fino a quel momento la televisione presentava dibattito, c'era curiosità, c'erano dei valori che si contrapponevano, alcuni poi si sono rivelati perdenti e questo nessuno lo dubita più, però fino a quel momento la televisione riusciva ad esprimere dei significati, riusciva ad esprimere dei dibattiti sensati, delle proposte politiche che si fronteggiavano. Da quel momento in poi invece è caduto, diciamo, uno dei due interlocutori, in questo caso quelli di quella sinistra che anche qui in Argentina aveva un ruolo definito, si è perso tutto e la televisione ha espresso il peggio di sé, come se da quel momento in poi avessero imperato solamente i programmi più trash, le trasmissioni più banali e più volgari. Ecco, un fenomeno che ci sentiamo di dire piuttosto diffuso. Grazie Roberto Darin. Grazie. E ora in Germania per passare a un fenomeno di reality del tutto particolare. Parliamo di carceri e del carcere di giudiziario di Hohenschönhausen nella ex Berlino Est. Ai tempi della DDR la Stasi ci mandava dissidenti in attesa di processo sommario, come il tedesco occidentale Karl Wolfgang Holzapfel, che nel 1965 protestò al Checkpoint Charlie innalzando un manifesto contro il muro di Berlino. Non appena varcò il territorio della Germania dell'Est venne arrestato e portato nel carcere, dove trascorse 9 mesi in isolamento. Ora l'ex detenuto è tornato sul luogo del delitto per rivivere una settimana di carcere volontario. È il suo modo per tenere vivo il ricordo dell'ingiustizia subita dalle tante vittime della Stasi, un'istituzione che, essendosi fortunatamente disfatta, è stata sostituita da internet. La prigionia di Holzapfel è infatti stata trasmessa online sul sito www.stasi-live.live Haft con la H davanti, punto de. Se volete andare a vedere potete farlo. E ora in Australia per una notizia scientifica che può risollevare il morale di molti. Essere di cattivo umore, infatti, secondo una ricerca scientifica australiana, non è del tutto controproducente. I sentimenti negativi, infatti, svilupperebbero la capacità di giudizio, rafforzerebbero la memoria e renderebbero la gente meno ingenua. Ce lo racconta il Telegraph, giornale inglese, secondo cui lo studio curato dal professore Joseph Forgas, psicologo, professore di psicologia all'Università di New South Wales in Australia dimostra come la gente di malumore sia più critica e presti più attenzione a ciò che succede attorno rispetto alle persone di buon umore, che sono più propense a credere tutto ciò che gli viene detto. Il buon umore, spiega il professore Forgas, promuove la creatività, rende le persone più flessibili, collaborative e più veloci nei collegamenti, mentre il cattivo umore rende più attenti, cauti e scaltri, più pronti ad evitare raggiri. Così il professore Forgas consola i rabbuiati spiegando che la tristezza non è necessariamente negativa, anzi può essere utile. Il team di ricercatori ha condotto diversi esperimenti che inducono sentimenti di benessere o di tristezza, guardando film o documentari che schiudano la porta a sentimenti positivi o negativi. In uno di questi esperimenti le persone resi felici o tristi venivano sottoposte a giudizi su pettegolezzi, miti e leggende su fatti della città. Le persone del cattivo umore erano meno propense a credere a queste dicerie ed erano anche meno propense a prendere decisioni istintive basate su pregiudizi razziali o religiosi, e facevano anche meno errori quando veniva loro richiesto di riportare eventi di cui erano stati testimoni. Se veniva poi chiesto loro di spiegare le proprie ragioni riguardo a un certo argomento, erano più concrete, concilianti e in generale con uno stile di comunicazione di maggior successo, con un messaggio più persuasivo. Se siete di cattivo umore, quindi, non abbattetevi, può essere una fortuna. Siamo in Inghilterra ed è un fumetto sui generis, quello di cui ci parla il Guardian. Non ci sono infatti uomini mascherati o raggi della morte, ma c'è un sacco di malvagità. Control Alt punto Shift è una nuova antologia che cerca di appassionare, di far indignare, arrabbiare la gente contro una piaga purtroppo molto reale, la corruzione in tutte le sue forme. Il tutto è nato l'anno scorso, i fumetti sono invece stati pubblicati proprio questa settimana attraverso l'associazione Christian Aid, che tenta di promuovere attraverso l'arte, fumetti, film o musica una nuova generazione di attivisti contro la corruzione. I fumetti raccontano la brutalità e le esecuzioni in Colombia, il sistematico e selvaggio sfruttamento di risorse naturali e minerali del Congo, il regime repressivo iraniano, la soppressione dei diritti umani in Cina. Molte delle strisce si basano su storie vere e, diciamo, non è la prima volta che i supereroi si impegnano in cause civili. Per 24 ore la fidanzata di Superman diventò di colore per combattere il razzismo, lo stesso Superman insieme a Batman hanno in un'avventura visitato l'Etiopia durante una carestia. E se desiderate ricevere l'antologia, il prezzo non è in fondo molto alto, costa poco meno di 5 sterline, lo trovate sul sito di Control, digitate CTRL-alt.shift con la H dopo la S. Ma abbiamo in linea un disegnatore vignettista, Vauro, a cui diamo il benvenuto. Benvenuti a voi. Vauro, allora, lei crede al valore di un'operazione del genere? Cioè, i fumetti possono creare una nuova generazione di attivisti contro il male, contro la piega della corruzione? La piaga? Beh, se non ci credessi non farei il lavoro che faccio, non farei satira in Italia. Mi stupisce che in questa antologia non sia compreso il nostro paese, visto che riguardo a corruzione e riguardo a brutalità, sto pensando alla vicenda di Cucchi, la più recente, purtroppo non l'unica, possiamo dire di non essere secondi a nessuno. Ecco. È vero che noi Superman ce l'abbiamo, ma non è abbronzato, è il Presidente del Consiglio, d'altronde si è definito così da solo, ha detto sono un Superman, sono un superuomo, no? Quindi probabilmente la satira in Italia, però satira è una parola un po' troppo nobile, diciamo che la comicità bassa in Italia ci pensa lui a farlo, tanto più fa tutto lui, per cui non c'è problema. Fatta questa premessa, io ci credo moltissimo all'uso dello strumento, del disegno, del fumetto, della vignetta, per stimolare perlomeno, per tentare di indurre un livello di coscienza maggiore in chi ne usufruisce, in chi lo legge. Poi questo l'uso, il fumetto, il disegno è un mezzo molto rapido di comunicazione, no? A differenza dell'articolo, del saggio o di quant'altro, perché ha un tempo di lettura brevissimo, quasi arrogante, quasi prepotente. Basta che ci cada l'occhio e le poche parole che sono scritte nel balloon vengono recepite e arrivano forse prima, grazie anche all'immagine, all'emotività, che alla razionalità. Ma è altrettanto vero, secondo me, che una razionalità che si possa dire tale, non può non partire dall'emotività. Ecco, quindi secondo lei... Dal sentire l'indignazione, dal sentire lo scandalo, dal sentire anche la rabbia e il dolore, perché no? Secondo lei la vignetta è più rivolta ormai a un ceto medio riflessivo, così si dice, che legge i giornali, oppure i giovani ancora leggono fumetti e si entusiasmano per le vignette? Io non credo che sia rivolta a un ceto particolarmente attento, che sia un fenomeno di nicchia, proprio per quello che dicevo prima, per la rapidità di fruizione, di lettura che il disegno, la vignetta o anche la storia a fumetti certo hanno. È piuttosto, con un termine che non mi piace, però mi tocca usare perché mi viene in mente, questo trasversale, cioè può raggiungere soggetti, persone, fasce che non sono raggiunte da altri mezzi, per esempio. Ecco, ultimamente da poco è stato pubblicato un fumetto che riguarda la Camorra, quindi che riguarda vicende di Camorra. Lei conosce altri esempi, conosce questo tipo di fumetto, conosce altri tipi di esempi, almeno in Italia, che cerchino di sensibilizzare verso la lotta alla criminalità? Credo che ce ne siano molteplici di questi esempi, molto sommersi, che hanno una vita molto difficile, perché il mercato editoriale italiano è soffocato e soffocante, anche perché si sa chi ne è il proprietario in buona parte, insomma, per cui queste esperienze, questi esperimenti spesso hanno un respiro provinciale, regionale o addirittura di quartiere, ma questo non toglie niente, anzi forse aggiunge alla ricchezza di questi tentativi. Me ne viene in mente uno siciliano, era un giornale, purtroppo non ce l'hanno fatta ad andare avanti, perché poi anche se si riducono i costi all'osso, queste operazioni comunque hanno un loro costo, che era il Pizzino, che era un giornale di satira fatto da un gruppo di giovani in Sicilia e aveva una sua circolazione in Sicilia, importantissima secondo me. Ecco, lei ha una rapidità incredibile nel disegnare, lo vediamo in Anno Zero. Quando disegna è trascinato da quello che sente o che vede, o pensa realmente a un intento preciso, cioè risvegliare le coscienze e far arrabbiare? No, diciamo che sono trascinato non solo da quello che vedo nell'istante in cui sto facendo il disegno, nel momento in cui sto facendo il disegno o nella trasmissione, ma da quello che vedo principalmente sento, e dando a questa parola sentire il suo significato più ampio, quindi sento anche con i nervi e con le viscere, come dire, e durante la settimana, durante l'anno, durante le 24 ore, leviamo quelle del sonno, ecco, diciamo le 14-15 ore di veglia. Ecco, se potesse avere la possibilità di pubblicare un fumetto, a cosa lo dedicherebbe? Quello che ho fatto le rifarei, le dedicherei alle guerre, alla miseria che le guerre portano, delle cose che ho fatto nella mia, ormai sono vecchiotto, per cui consistente carriera, consistente perlomeno come numero di anni. Le cose che preferisco sono quelle che i disegni, le vignette che ho fatto durante la guerra in Afghanistan, stando in Afghanistan, durante la guerra in Iraq, stando in Iraq, perché sono fermamente convinto che anche la comunicazione che passa attraverso il disegno, attraverso la sintesi del balloon, cioè del fumetto e compagnia bella, proprio perché è così sintetica, necessita di un alimento di esperienza molto forte. Grazie a Vauro. Grazie a voi. The Japanese Times ci segnala come sia cresciuto l'interesse verso la cultura nipponica, in particolare verso i manga. In realtà esiste proprio un team di ricerca sul livello di penetrazione della cultura nipponica in Giappone, collegato al Ministero dell'Educazione, e in particolare si è capito che l'immagine del Giappone forte nel mondo non riguarda tanto il sushi o la cultura alta, quanto i manga e l'anime, i cartoni animati giapponesi. Insomma, dalla ricerca quello che viene considerato un paese algido e distante, riacquisterebbe maggior calore proprio grazie a questa cultura pop. Si sarebbero così avvicinati, secondo ricerche e sondaggi, al Giappone, Sud Corea e Cina, accettando di essere riconsiderati tutti sotto un'ala pan-asiatica che prima non era ben vista. Così, grazie ai fumetti animati, la gente si avvicina alla lingua e sono molti gli stranieri che si iscrivono ai corsi di giapponese. Insomma, lasciati da parte il teatro no, le geishe e il tatami, il Giappone, reso antipatico anche dalla sua potenza economica e dalla sua perfezione, ha un picco di popolarità grazie a Hello Kitty and Friends. Il nostro appuntamento con la finestra sul cortile finisce qui. Un grazie a Vittoria Mussini in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Un saluto affettuoso e un augurio di buon fine settimana da Cristina Battocletti.